Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, vi stavo aspettando, sono le 11.08, Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, andiamo al nostro sommario. Quando l'estate accende la passione, musica amica dei bambini, lo yoga fa per te? Scoprilo con noi. L'estate sta finendo e qui a Milano sembra già finita e per alcuni è finito anche l'amore. Oggi parliamo degli amori estivi, fuochi di paglia o relazioni destinate a durare nel tempo. Tutti noi abbiamo, credo, anzi ne sono certo, una storia da raccontare, una passione nata in vacanza che ci ha toccato, segnato, cambiato. Vogliamo oggi parlarne con voi insieme a tanti ospiti, quindi chiamateci se avete una storia d'amore da raccontare. E anche se sulla base delle vostre esperienze vi siete costruiti una vostra personale teoria dell'amore estivo, oggi il numero verde è a disposizione quindi per parlare di cuore, di amori presenti, passati, di amori che ci fanno ancora sognare e di quelli che ci fanno soffrire. 824 0024, un numero rosa, rosso direi perché parliamo di passione, 349 238 6666. Se invece preferite scriverci un messaggio, vi presento subito gli ospiti di oggi, ce ne saranno altri nel corso della trasmissione, ma intanto in linea do il benvenuto alla professoressa Simonelli che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, con allegria da Roma che è pure un po' grigia. Ecco, tiriamoci su. Sì, certo. E psicoterapeuta e sessuologa, mentre qua in studio con me abbiamo Alberto Pellai. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Parliamo spesso di amore, anche di amore degli adolescenti con Alberto, in questa casa non è un albergo. Oggi parliamo di magari storie d'amore di quando eravamo ragazzi e che in qualche modo ci hanno insegnato, condizionato, cambiato. E io direi, per entrare subito nel tema di oggi, andiamo ad ascoltare un breve estratto di un film, Grease, che parla proprio di un amore estivo. Devo tornare in Australia, forse non ci vedremo più. No, non dire così, Sandy. Ma è vero. È stata la più bella estate della mia vita e adesso devo andarmene. Non è giusto. Questa è la fine. Ma cosa dici? È solo il principio. E qui il vostro amico Vincent Fontaine che vi fa cominciare la giornata previene con musica, tanta musica, tantissima musica. E tu fuori dal letto, il primo giorno di scuola, non potrire, pensa all'avvenire, torna a scuola, scappa e lavora. Per cominciare la giornata nel modo migliore, metto il disco del mio cuore. Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te. Ah, sì? Sì. Sandy! Danny! Ma cosa fai qui? E io credevo che tu tornassi in Australia. E invece sono rimasta. Io non... Molto lieto di vederti, pupa, solamente che io adesso sono molto occupato, un certo movimento. Danny! Sì, quello è il mio nome, ma non lo sciupare, eh? Ma che ti succede? Che succede a me, pupa? Ma che succede a te? Che cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare? Professoressa Simonelli, può capitare, capita di frequente, al ritorno, al rientro, l'amore, paf, svanisce. La parola vacanza già ci dice delle cose, cioè siamo liberi da tutti quegli impegni normali, ordinari, quotidiani in cui siamo inseriti e quindi siamo molto più disponibili e può essere una parentesi e quindi il confronto diciamo tra quei momenti, quei giorni di libertà, di gioco e di passione quando capita, poi messi a confronto diciamo con quello che siamo normalmente, richiedono come dire un gran lavoro, no? Quindi è difficile, come se fossimo adesso estremizzo, ma due persone un po' diverse, no? Perché in una situazione noi esprimiamo tutta una serie di valenze che normalmente non c'è tempo, non c'è possibilità di esprimere, quindi anche un po' il sogno, no? Allora mettere a confronto queste due realtà, perché sono vere poi tutte e due, non è che in vacanza poi uno sia necessariamente finto o completamente diverso, però bisogna fare i conti con il contesto, intendo, e forse valgono più, pesano di più 11 mesi di lavoro, di studio, di inserimento nel proprio contesto, piuttosto che un mese di vacanza, intendo, no? Quindi quello diventa un po' un punto critico per ognuno di noi, no? Come si porta questa esperienza nella vita quotidiana, che è quella che poi ci può piacere o meno, ecco, questo è un punto importante. E come si fa i conti con questo? Ognuno fa quel che può, poi naturalmente, ecco, c'è il discorso di, che so, una persona di 18 anni oppure una persona di 40, e anche quello fa già una grossa differenza, cioè se è una personalità strutturata, se è il momento dell'adolescenza e della conoscenza. L'amore è sempre potenzialmente conoscenza di sé e del mondo, quindi questo è un mandato forse importante. E ci farebbe anche un po' pensare e riflettere. Credo che magari se gli ascoltatori chiamano, ci raccontano la loro esperienza, questo verrà fuori in maniera abbastanza netta, no? E invitiamo infatti i nostri amici da casa a chiamarci per raccontarci le loro storie di quest'estate, ma anche di quelle da cui hanno fatto tesoro, hanno inserito nel loro bagaglio di esperienza. L'amore serve anche a conoscere se stessi prima di tutto. Ma Alberto, tu hai una tua personale teoria sull'amore estivo, non solo quello che nasce in vacanza, ma quanto le vacanze possono aiutare l'amore? Ma io riprendo un commento della professoressa Simonelli e credo che in estate siamo più liberi di metterci in gioco, e quindi possiamo proprio usare un luogo altro rispetto alla quotidianità, alla normalità, nuove amicizie, nuove relazioni, per provare a essere diversi da come siamo di solito. Penso che c'è qualche ascoltatore che nella vita di tutti i giorni è molto orientato sul lavoro, magari con un'agenda piena di impegni, improvvisamente arriva in vacanza e scoppia la passione, e probabilmente al ritorno, quando tutto è finito, si domanda cos'è rimasto di quelle esperienze, come mai non riesce a traslocare il vortice della passione nella quotidianità, e queste saranno lacrime probabilmente. Certo, in questo e poi momento c'è anche da riflettere su questo: riusciamo nella nostra vita a lasciare spazio, perché l'amore è un po' come una piantina, dobbiamo seminarlo, coltivarlo e anche dare spazio all'amore di crescere, oppure lo soffochiamo con altri impegni che forse ci mettono meno in gioco. Intanto arrivano già tanti sms. Sara da Bologna: 3 estati consecutivi ad innamorarmi della persona sbagliata, così ho passato 3 inverni consecutivi a leccarmi le ferite. Ecco perché quest'anno ad agosto gli uomini li ho tenuti ad 1 chilometro di distanza. Quindi Sara è da Bologna, è un po' delusa, magari, chissà, magari lo troverà in inverno. Oppure potrebbe domandarsi come mai per 3 estati consecutive improvvisamente l'amore ha fatto breccia e c'è stato bisogno dell'estate. Andiamo a Carmela da Napoli: ho incontrato mio marito al mare in agosto, l'agosto successivo l'ho portato all'altare. Chissà se l'ha portato o trascinato. Chi l'ha detto che in spiaggia nascono solo avventure a breve scadenza? Se volete continuare a scriverci, 349-238-6666. Se invece preferite raccontarci come sta andando il vostro amore, che esperienza avete avuto dell'amore in vacanza, se riuscite a farlo crescere anche quando il tran tran degli impegni lavorativi prende il sopravvento, 824-0024, questo è il nostro numero verde. Chiacchieriamo insieme. Una mela al giorno. Filastrocche, canzoncine, giochi in rima, le ultime ricerche scientifiche dimostrano che tutto questo per i bambini è più di un passatempo, è uno stimolo per il cervello, uno stimolo che insegna a memorizzare in fretta le parole e quindi a parlare, e le melodie e quindi ad amare la musica. Tutto questo, care mamme all'ascolto, è musica per le nostre orecchie. Ne parliamo con la dottoressa Maria Luisa Lopez, responsabile scientifico del progetto Neuroscienze e musica delle Fondazione Mariani. Buongiorno professoressa Lopez. Buongiorno a lei. Allora, dietro a queste ricerche è chiaro c'è l'idea che la musica possa essere proprio un mezzo per facilitare anche la codificazione di messaggi non musicali come il linguaggio, e anche per stimolare anche i processi di attenzione dei bambini. Sì, sembra, questo di fatto viene quasi come un'ovvietà per moltissime mamme che sicuramente già utilizzano molto questo strumento, però devo dire che è stato sfruttato tantissimo nella cultura anglosassone, dove la complessità della lingua dal punto di vista fonologico ha sempre dato adito a questo tipo di stimolazioni sin da piccoli, quindi molto spesso nelle culture inglesi noi impariamo e vediamo che loro imparano con filastrocche, i numeri, sì, le sequenze, le tabelline e tutto. In Italia siamo un po' meno abituati, ma anche perché la nostra lingua è un po' più facile dal punto di vista così dell'ortografia e della fonologia. Quindi è chiaro che noi ci arriviamo un po' dopo, però per fortuna ci arriviamo, nel senso che secondo me queste ricerche sono fatte sì con popolazioni in inglese, però secondo me possono davvero darci spunti, nel senso che è vero che la melodia fornisce un ulteriore stimolo regolare e armonico che sicuramente favorisce la memorizzazione, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'importanza di mettere all'interno di queste melodie delle parole che abbiano un senso dal punto di vista fonologico, per esempio abbiano delle rime, quindi le filastrocche diventano l'elemento fondamentale, come ha detto lei. Dottoressa Lopez, quindi passando dalla teoria, dalle ricerche alla pratica, entriamo nelle case per dare dei suggerimenti alle nostre mamme. Ci viene istintivo raccontare, insegnare delle filastrocche ai bambini. Qua abbiamo la conferma che tutto questo serve, aiuta i nostri bambini, ma lei da esperta che cosa può aggiungere? Beh, intanto potrei suggerire alle mamme di cantare canzoni che anche per loro vengono facili dal punto di vista sia della tonalità che della memoria, in modo che il modello che si viene formando anche nella testa dei bambini sia sempre simile, altrimenti poi creiamo invece più confusione, no? Quindi delle canzoni belle, nel senso che non debbano essere di tonalità strane oppure con delle strani salti di melodia che magari non riusciamo neanche a seguire, quindi poi lì ci imbrogliamo un poco e cambiamo tono, questo potrebbe essere più pericoloso. Però ecco, delle canzoni quindi che loro già sappiano, poi delle canzoni interessanti per i bambini. Le filastrocche che ci sono a volte nei cartoni animati diventano per loro interessanti sia perché un po' le hanno conosciute, perché per noi è interessante, riusciamo ad impararle, ma anche perché agganciano un'informazione visiva ulteriore rispetto a tutto quello che stanno apprendendo, e diventano una base di gioco poi, perché noi possiamo all'interno di quelle che ormai diventano le loro canzoni orecchiabili eccetera, quando sono un po' più grandini, giocarci, per esempio cambiare le rime, per esempio trovare una parola che abbia lo stesso suono. Questi sono giochi importantissimi per lo sviluppo futuro del linguaggio, ma anche della lettoscrittura addirittura, quindi si sa che la base fonologica è fondamentale anche per quella. Quindi continuiamo su questa strada. Sì, senz'altro, io sono entusiasta di questi lavori. Magnifico, allora andiamo di filastrocche. Grazie dottoressa Lopez per essere stata con noi, buona giornata. Ti figuri, a presto, buongiorno. Pronto soccorso. Sono passati 18 lunghissimi anni, ma Forte dei Marmi è sempre lì. E la capannina sembra essersi addormentata con la faccia di allora, allegra e impertinente. Paolo! Susan! Guardate chi c'è, Cecco! Oh my God, Cecco! Sai, io e Susan poi ci siamo sposati. Beh, si vedeva già da allora che vi volevate bene. Ciao, Luca! Ciao! Ma come, non ti ricordi di me? Come no? Sai che ti trovo bene? Anche tu stai bene. Beh, adesso vado, c'è mio marito che mi aspetta al tavolo. Ma chi è quella lì? È quella Marina di Napoli, quella col fratello imbranato, ti ricordo. Chi? Quello che portava rogna? Esatto. Madonna, che figura! Marina! Tempo di una follia. Oltre ai fratelli Carraro, chi viene ancora al Forte d'estate è Selvaggia. Non sta più con Gianni. È sposata, separata e convive da 3 anni con un negoziante di macchine di Pistoia. Gianni viene una volta ogni tanto alla capannina. Ora fa il giornalista. Non si è mai sposato perché dice che non ha ancora trovato la donna giusta. Signora, è per lei. Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella. Luca. Partire su un altro, andare lontano. E ricominciamo a parlare d'amore. Chissà, ad alcuni dei nostri ascoltatori sarà capitato una situazione, avranno vissuto magari quest'estate una situazione simile a quella descritta da Sapore di Mare. Si incontra a distanza di tempo un ragazzo, una ragazza, ormai diventati adulti, che, con cui avevamo avuto una relazione, una storia d'amore. 800 24 00 24. Ci sono tanti messaggi. I miei genitori si sono conosciuti al mare nella la favolosa cornice degli anni 60, due anni dopo si sono sposati, poi sono nato io, quindi viva gli amori estivi. Alberto, ce ne sono un po' altri di altro tono? Vuoi leggerne qualcuno? Ma tu? Credo che uno che nasconde una grande verità sono i migliori perché rimangono in sospeso. E un altro molto interessante, possiamo rilanciarlo a tutti i nostri ascoltatori, una storia frequentissima. Due settimane fa ero in vacanza e mi sono innamorata dell'animatore cubano. Sembra corrisposto. Mi sento come una diciottenne, ma ho 40 anni, Marta. E qua gli animatori nei villaggi effettivamente fanno strage di cuori. Durerà? Lo chiediamo a voi. Lo chiediamo a voi e lo chiediamo alla professoressa Simonelli. Evidentemente in vacanza gli amori che nascono in vacanza hanno qualche cosa che ci attrae, qualche cosa in più. Proprio Marta ci scrive: mi sento come una diciottenne. Fanno battere il cuore, eh? Non c'è dubbio. Hanno qualcosa in più, anche la paura che questo finisca, no? Cioè, perché è una paura un po' condivisa, appunto, che sia una parentesi, forse questa paura è più femminile anche, no? Perché le donne continuano nonostante tutto ad essere più romantiche, come dire, ad apprezzare fino in fondo certi scenari meravigliosi, perché naturalmente se uno va in vacanza di solito sceglie un posto bello, può apprezzare un tramonto, cosa che ci succede di rado, e condividerlo con una persona appena conosciuta. Poi c'è il discorso lanciato dall'SMS che ha letto Alberto, che tra l'altro saluto affettuosamente, e che ci riporta al ruolo importantissimo, non so, dell'animatore del villaggio, no? Che visto fuori dal villaggio, perlomeno io ho questa esperienza, mi è capitata, diciamo, in un villaggio particolare, così, di fare amicizia con una ragazza molto giovane che si era perdutamente innamorata di un animatore. Rivisto in Italia, lei si è domandata come questo fosse possibile. Perché, diciamo, tutto quel fascino formidabile che era spartito, tra l'altro, nella popolazione così delle ragazze che facevano a gara, come dire, per conquistarlo, poi si è spento e dice: ma chi è questo fuori, qua? Beh, fuori contesto, naturalmente, questo invece non funziona affatto, quindi insomma ci sono molte variabili anche specifiche. Molte sfumature, professoressa sì. Simonelli. E io saluto Francesco da Milano. Francesco, buongiorno. Scusi, spengo la radio un attimo. Sì, intanto Francesco, che lei spegne la radio, leggo a lei e ai nostri amici un messaggio di Angela che ci scrive da Udine. Credo che molta gente vorrebbe vivere liberamente anche durante l'anno, purtroppo non lo vive nel proprio ambiente per i giudizi degli altri. Vera ipocrisia dei ben pensanti. L'alibi dell'estate è che nessuno mi vede. L'amore non ha limiti di spazio, tempo e ambiente geografico. Angela ci fornisce uno spunto che naturalmente riprenderemo, di cui magari Francesco, su cui Francesco vuole fare un commento. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sto guidando, cerco di un attimo di parcheggiare perché non vorrei che prendere una multa. No, per carità, che poi lì è scotta come riesce a essere. Sì, sì. Allora, la mia è una storia che è nata nel 73, cioè più che una storia, è una storia che continua a singhiozzo, ne spiego. Nel 73 io stavo a Jesolo, che è una località sull'Adriatico, sì. E conobbi una ragazza con cui, diciamo, ebbe una storia, sì. Una classica storia, chiamiamola storia estiva, così, anche se non mi piacciono queste, come dire, catalogare, diciamo, le storie così. E sta di fatto che dopo un po' di anni ci siamo rivisti a Roma, sì. Casualmente, al Pantheon, io stavo visitando il Pantheon. No? La vita vi ha fatto incontrare nuovamente. Sì, però lei nel contemporaneamente si era sposata, stava col marito. Ci siamo rivisti, ci siamo salutati, ho conosciuto il marito, siamo andati a bere qualcosa, parlo del 79. Sì, siamo nel 2009, Francesco. Siamo nel 2009. Quindi è una storia che praticamente sta durando da una vita. Ma le spiego, la storia sarebbe un po' lunga, perché io con lei chiaramente ho avuto una storia, diciamo, più che sentimentale, una storia vera, una storia, sì. Diciamo, carnale, tanto per intendersi. Quindi una storia, diciamo, di sentimento e di corpo. Sì. E successo questo, ecco, scusi un attimo, sto posteggiando. Se non sì, qui. Francesco, però io vorrei sapere, mi ha messo un po' sulla curiosità, non possiamo fare la cronistoria del suo amore perché il tempo è un po' tiranno, ma adesso questa storia iniziata nel 73, presa e mollata, lei sposata, come sta andando? Allora, io intanto mi sposerò l'8 ottobre. Con un'altra? Con un'altra. Dopo tanti anni di convivenza. Sì. E lei praticamente è successo questo, che lei mi ha dato il suo numero, quando ci siamo alzati dal bar lì a Roma, mi ha dato il suo numero, ha detto, beh, risentiamoci, dico, però di nascosto dal marito, e già ho capito che c'era un qualcosa. La cosa che mi ha colpito è che lei mi ha detto, io come ho mi trovo bene, ho perfetta intesa fissa, però non mi ha mai detto le parole e i pensieri che mi dicevi tu. Ah, vede. Alberto, beh, che dici? Io sono però sospeso, nel senso che dopo che c'è stato questo incontro e questo feedback, poi vi siete risentiti, rivisti ancora, o lei ha ancora solo questo grande ricordo di questa frase importante? Vabbè, a me fa piacere questa cosa. Però certo, ormai non c'è più una storia. Non c'è più una storia. È rimasto un rapporto così telefonico, diciamo così. Ecco, però Francesco, adesso lei si sta per sposare. Sì. Quindi il passato è passato. Metta la testa sul collo. Sì, eh? Sì. No, ma non ci siamo più rivisti. Bene. Il 79 e il 2009 sono passati. Francesco, le auguro la sua nuova storia. È nata in vacanza o è nata in inverno? No, la nostra nuova storia è nata in ospedale. Ah, quindi io stavo ricoverato, l'infermiera che mi accudiva, sarà poi sua moglie. Francesco, tanti auguri. Noi abbiamo anche Giulia da Milano, altri ascoltatori in linea, ma adesso abbiamo i mercati. Tante volte le storie si finiscono, si riprendono. A volte ci innamoriamo di storie che vediamo e sentiamo raccontate, di storie di personaggi famosi. Ci immedesimiamo e vogliamo trascinare qualcosa di queste storie nel nostro quotidiano. Amore, questo è il tema di oggi, 824 0024. Abbiamo pensato di parlare degli amori nati in vacanza, non solo in questa vacanza appena passata, ma anche di invitarvi ad andare un po' indietro nel tempo. E devo dire che dagli SMS i nostri ascoltatori raccontano tutte storie a lieto fine. Allora mi verrebbe da chiedere ai miei esperti, ma si può capire quali sono le caratteristiche di una storia pur nata in un ambiente vacanziero ma destinata a durare nel tempo? Tu, Alberto, riusciresti? Ma credo che il colpo di fulmine probabilmente funziona davvero bene in estate e anche ha più possibilità di avvenire, e credo che poi sia quella capacità automatica che un grande amore ha di far intuire che dietro la fiammata potentissima della passione c'è però una perfetta corrispondenza non solo di sensi ma anche di intenti, cioè non è solo emozioni ma è proprio anche pensieri e sintonia che ti fanno capire che quello probabilmente è l'uomo o la donna che ti cambieranno la vita per sempre. Professoressa Simonelli? Ma io ricordo che in apertura veramente è stato letto un SMS di una ragazza che secondo me non è l'unica, anzi, che magari per due estati consecutive ha vissuto una buona passione, una bella passione, una bella esperienza, però poi diciamo raccontava di aver pianto l'inverno, tant'è vero che quest'estate ha tenuto a distanza gli uomini. E queste esperienze diciamo sono abbastanza diffuse, quindi io credo che poi gli elementi in ballo siano i più disparati, voglio dire, fermo restando che poi prognosticamente, cioè per capire se questa cosa può funzionare o meno, vale quello che ha detto Alberto Pellai adesso, cioè ci sono poi delle altre affinità o è, come dire, un sogno, un'attrazione forte, una passione che comunque può valer la pena di vivere, intendiamoci, no? Però sulla progettualità e sul fatto, come succede però anche a molti poi, di progettare, sposarsi. Io conosco molte coppie anche con donne straniere che una volta venivano in Italia, che poi hanno sposato uomini italiani, e mi è capitato anche, insomma, in un ristorante vedere una signora svedese che gestiva insieme al marito contenta dopo 30 anni e si erano incontrati durante... Magari a Rimini, eh? Brava! E a proposito, no, l'ho buttata lì perché arrivano, ci sono arrivati dei messaggi di tre ascoltatori bagnini, che si presentano come bagnini, che ci raccontano appunto che l'estate è un fiorir di amori, però destinati ad andare via, a spegnersi, no? Quando si tolgono sdraio e ombrelloni, questa è la cosa, svaniscono anche gli amori. Tra l'altro abbiamo Claudio da Novara, Giulia da Milano, Luana da Pisa, sono subito da loro, ma in mezzo a tutti questi sms che parlano di amori a lieto fine abbiamo bisogno di aiutare un amico che ci ha scritto: ho 36 anni, lei 18, ci siamo conosciuti inizio luglio, amore a prima vista, ha litigato con i genitori per venire in ferie con me, 20 giorni di amore e passione, aveva già le chiavi di casa ma... tornati in Italia, ha deciso che abbiamo troppi anni di differenza e mi ha mollato. Non capisco, sono piuttosto a terra. Aiuto! Ecco, questo è uno proprio delle situazioni, no? Del grande amore e passione. Poi nel ritorno, nella quotidianità, si vedono cose che in vacanza, prese dalla passione, dal clima di relax, dal desiderio anche di lasciarsi un po' andare, non si vedevano. Quindi se volete aiutare il nostro ascoltatore, lo faremo aiutare naturalmente dalla dottoressa Simonelli e da Alberto Pellai, ma intanto Claudio da Novara, buongiorno! Buongiorno! Claudio, come va? Benissimo. Sei innamorato in vacanza? Ah sì, guardi, io sono, se gli amori estivi si spengono, io sono un pessimo pompiere, perché perché io ho conosciuto la mia poi futura moglie nel 1988, quindi sono 21 anni che siamo felicemente sposati, la risposerei altre 30 volte, se fosse possibile, e boh, abbiamo due gemelline. Si sarebbe innamorata anche di lei se fosse stata in ufficio, non in vacanza, insomma, Claudio? Ma spero di sì. Questo è difficile a dirlo. Infatti. Quindi un amore estivo è andato bene. Andiamo, grazie Claudio, complimenti e auguri. Giulia da Milano, buongiorno, com'è andata lei? Eccomi, beh, guarda, io ti volevo parlare di un'esperienza che mi riguarda un po' indirettamente perché riguarda mio figlio. Sì. Che 5 anni fa è andato, lui viveva a Milano, è andato in Sicilia e si è innamorato follemente di questa ragazza bellissima, lei pure, e le ha promesso che sarebbe tornato. Tornato a Milano in 20 giorni, non so come abbia fatto, è riuscito a trovare lavoro in Sicilia. Ha lasciato tutto, il lavoro, la casa, gli amici, tutto. La famiglia, giù, lui non conosceva assolutamente nessun altro al di fuori di lei. E adesso è giù, felice e contento. E adesso è giù, si è trasferito, sono felicissimi, si sono sposati, è nata una bambina meravigliosa, lo stesso giorno del matrimonio hanno fatto il battesimo. Giulia, scusi, ma lei come mamma non ha cercato di dirgli, guarda, ma guarda è un fuoco di paglia, ma no, vai lontano. No, perché ho capito che lui era veramente molto coinvolto. Da che cosa l'ha capito? L'ho capito perché non riusciva più a stare qua, lui con la testa era là. Con la testa era per là. Per cui io diciamo che certo ero preoccupata più che altro per un colpo di testa, che dico adesso lascia il lavoro, si trasferisce, poi insomma si complica la vita. Però l'ho aiutato a staccarsi e gli ho detto: Gabriele, fai questa scelta, se poi una mattina ti sveglierai e ti chiederai cosa faccio qua, la porta è qui ancora aperta. Grazie Giulia, un'altra storia d'amore a lieto fine. Dottoressa Simonelli. Qui intanto bisogna dire che c'è una mamma fantastica in ballo. Giulia è magnifica. No, una mamma non mediterranea direi, ma veramente affettuosa, che vuol bene un figlio e non possessiva. Insomma, le storie a lieto fine ovviamente, come si è detto, ci stanno, la sensazione che possano essere un pochino più a rischio questi incontri estivi sui grandi numeri, ma insomma, no? Mentre abbiamo visto il nostro ascoltatore che chiedeva aiuto, mollato da questa ragazza, ecco, di 18 anni, che improvvisamente al ritorno a casa dice: no, forse gli anni di differenza, 20 anni di differenza, tornando a casa mi pesano. Esattamente, allora lì diciamo si mostra quello che è poi un problema per tutti noi rispetto alla passione e all'innamoramento. C'è un aspetto magico, cioè la corrispondenza di amorosi sensi e di progetti, e questa è una magia, cioè voglio dire, non è scontato, per cui la stessa esperienza vissuta da due persone che hanno storie alle spalle e strutture caratteriali non identiche, ovviamente, certo, naturalmente possono elaborare la stessa esperienza in maniera completamente diversa. Quando, diciamo, l'intensità del coinvolgimento e del progetto è alla pari, è veramente una magia, cioè intendo dire non è statisticamente da pretendere, no? Certo. Ci si rimane sempre male quando ci si sente meno amati o messi in discussione o messi da parte, però è legittimo, soprattutto in una persona più giovane, non tanto per le, come dire, la differenza di 20 anni in sé, ma la differenza proprio evidentemente di vissuto e di esperienza alle spalle e di richiesta rispetto all'amore che le due persone in questo caso evidentemente mostrano, no? Questo non significa che non possa essere ridiscusso, che lei non ci possa ripensare, eccetera, però va rispettato ed è molto doloroso per ognuno di noi quando ci si rende conto che c'è questo gap, c'è questa differenza, no? Cioè che l'altro ama di meno o c'ha dei dubbi. Questo è il punto. Sì, si soffre, le pene d'amore sono veramente pene, grandi. Abbiamo Luana da Pisa, prima dei mercati, no, anzi della viabilità. Luana, buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene anche lei? Sì, tutto bene. Io ho conosciuto mio marito il 3 agosto del 1964. Sì. Eravamo per strada. Esistono i colpi di fulmine. Infatti è stato un colpo di fulmine, passeggiando, questo passava, e festeggiamo lunedì 40 anni di matrimonio, 45 anni insieme. Senta, ma questo passava, l'ha guardato e che cosa le ha detto? Ormai... Niente, è passato in macchina, aveva 3 appuntamenti e è ritornato indietro. E si è presentato. E si è presentato. E lei il cuore? È stato un tumulto proprio. Bello, bello. È un amore. Ecco, lui era in macchina, aveva 3 appuntamenti, si è fermato. Luana, complimenti e auguri. Eccoci, siamo qui. Federico, ciao, benvenuto. Buongiorno, grazie. Federico, hai sentito? Eri già in linea quando Luana ci ha raccontato del suo incontro, del suo colpo di fulmine. Potrebbe essere proprio un incontro che tu descrivi nei tuoi libri. Esatto, scusa ma mi voglio innamorare. Ecco. Nuovo titolo. Senti, tra l'altro, abbinato all'uscita del tuo libro, c'era un concorso in cui invitava a raccontare il modo in cui hanno dichiarato. Gli innamorati si sono giurati amore eterno. Sì. Io credo che era l'occasione bella, un ottimo spunto per potersi conoscere, perché molte volte lo scrittore rimane in qualche modo lontano dai lettori, quindi queste feste per in qualche modo far conoscere meglio, scusa ma ti voglio sposare, l'ultimo libro, è stata anche l'occasione a tante ragazze, tanti ragazzi, tanti futuri sposi, quelli di raccontare in pubblico quella che è stata la loro particolare dichiarazione. Senti, e tu che sei un osservatore attento, a distanza di anni si innamorano nello stesso modo in cui ci innamoravamo noi? Abbiamo più o meno la stessa età, Federico? Beh, io credo proprio di sì, nel senso che le sorprese che hanno raccontato ne sono testimoni in qualche modo, cioè mi sembravano quegli stessi sentimenti, quelle stesse emozioni, quelle stesse paure, no? Per cui tutta la preparazione che qualcuno fa sapendo ciò che dirà, come fare questa sorpresa, l'anello nascosto dentro il barattolo di vernice oppure sotto la tazzina per il caffè o dentro la torta o per la cena, equivalgono, io credo che siano delle cose che non hanno tempo e quindi che rimangano con sorprese più o meno diverse ma emotivamente sempre le stesse. Senti Federico, tu che parli spesso di amore, ti ricordi un tuo amore estivo? Ma quello accadeva quasi sempre quando uno sta a scuola da piccolo, nel senso che essendo una scuola maschile facevi un anno scolastico molto più tranquillo e sicuro con tutti i tuoi amici, e poi quando arrivava l'estate in qualche modo conoscevi la ragazza. Magari e come si chiamava quella che ha fatto battere il tuo cuore? Alessandra. Sì. Chissà adesso quale c'è un'Alessandra, speriamo che sia all'ascolto di Radio 24, che si sentirà chiamata in causa. Dottoressa Simone, professoressa Simonelli. Questi racconti sono veramente molto belli, perché appunto c'è come un punto che rimane sempre fedele a se stesso, no? Cioè il colpo di fulmine, il sentire, come dire, totalmente che l'altro è importante, il mondo passa dall'essere, che so, in bianco e nero a un mondo a colori, ecco. E questo è un po' la costante, no? Vogliamo però, Alberto, occuparci in questa giornata uggiosa in cui parlare magari di storie d'amore a lieto fine tira un po' sul cuore, ma vogliamo occuparci anche di chi al ritorno dalle vacanze si sta un po' leccando le ferite? Ma sì, io penso che diventa ancora una ripresa, con il cuore a terra la ripresa diventa ancora più faticosa. Purtroppo ricette non ce ne sono. Perché... Allora, per consolarlo intanto possiamo dirgli che succede molto frequentemente. Potremmo aggiungere anche due o tre idee che possono essere utili. Uno, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, le storie dove siamo così emotivamente coinvolti raccontano sempre qualcosa di noi e ci aiutano a conoscerci meglio. E direi proprio anche ripensare a perché è fallito, che cosa non ha funzionato e come mai in questo momento soffro così tanto. Probabilmente diventa una cartina tornasole che ci fa dire: siamo entrati in una storia d'amore con un progetto, o abbiamo scoperto un progetto quando siamo entrati in quella storia d'amore che non era corrisposto. E secondo me diventa un piccolo bagaglio di autoconoscenza, un patrimonio proprio di informazioni importanti per amare meglio la prossima volta, per capire cosa cerchiamo realmente e da che cosa dobbiamo stare lontani. Allora, tante volte quando noi abbiamo il cuore così un po' malandato, amiamo sognare guardando e facendo così, sognando con le storie degli altri, di quelle ad esempio che ci vengono raccontate sui rotocalchi. In linea con noi abbiamo Monica Setta. Ciao Monica! Ciao carissima, buongiorno. Monica, buongiorno. Grazie per essere con noi. Io ricordo, non c'è bisogno, è caporedattore di Psicologi e da lunedì prossimo la rivedremo in TV. In televisione, sì. Vero? Su Rai 2, anzi tra l'altro ti invito ufficialmente perché parleremo anche temi a Teccari. Il fatto del giorno alle 14 su Rai 2, apriremo il pomeriggio. Invitatemi che io vengo volentieri, molto volentieri. Senti Monica, io per me è sempre un grande piacere averti in onda, ma volevo avere un po' il tuo punto di vista, perché tante volte noi gli amori non li abbiamo e ci innamoriamo delle storie dei VIP, sì, dei personaggi famosi. Quest'anno ne abbiamo avuto calvissima. Ecco. Però che cos'hanno? Non tutti veri, sai? Non tutti ecco, veri. Perché ce li presentano sempre così lontani dalla quotidianità che un po', insomma, sembrano delle favole a cui amiamo. E secondo me è un grande errore, se ti posso dire il mio pensiero, per essere stata da tantissimi anni una militante, tra virgolette, cronista di cronaca appunto rosa. E guarda, l'idea per esempio di George Clooney e Elisabetta Canale continua a non convincermi. L'ho detto, l'ho ridetto pubblicamente. Sono abbastanza sicura che si tratti magari di una simpatia, però sicuramente oggetto di un'enorme manipolazione da carta patinata. Sono talmente perfetti da essere veramente incredibili, cioè quando anche fosse vero, il consiglio che mi sentirei di dare loro, ma anche altre coppie dell'estate, sì, in mente per esempio una coppia molto trash, Zekila e la signora Trump, no? Sì. Io il consiglio che darei è di essere il più imperfetti possibile, cioè i più umani, magari una scivolata, una gaffe, una foto stonata, una foto brutta, proprio dichiaratamente brutta, cioè una foto dove uno viene in maniera naturale, perché tutte queste foto ritoccate al Photoshop, tutte queste età, guarda Nicoletta, io leggevo appunto di molti VIP sui rotocalchi rosa e conoscendoli personalmente mi stupisco perché loro fanno la corsa a telefonare e ad abbassare la proprietà anagrafica, il che secondo me sì, veramente, basta finita. Allora, meglio noi che ci arrabattiamo, Monica, con le nostre storie tra alti e bassi e investiamo, insomma, noi abbiamo sempre un po' bisogno di sognare, ma tante volte non ci accorgiamo che il sogno è già nel nostro, la cosa bella è nel nostro quotidiano. Monica, noi ci sentiremo presto anche con la professoressa Simonelli, con Federico Moccia, che ringrazio tutti per essere intervenuti in trasmissione, ringrazio i miei ascoltatori che ci hanno seguito, scritto tutto. Aspettiamo come sempre suggerimenti e commenti. Alberto, noi ci sentiamo sabato. Insomma, grazie a tutti. Io sto sforando. Un abbraccio ai miei ospiti, un abbraccio a voi. Buonissima giornata da Nicoletta. Io domani vi aspetto. Non mancate, come sempre, portate con voi un amico. Essere e benessere.